Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. È autunno e i colori dell'autunno sono meravigliosi, naturalmente se si può stare nelle campagne. Oggi vi porto a visitare delle campagne con la C maiuscola, cioè le campagne del Chianti, tra la Val di Pesa e la Val di Greve. Sono nell'abbadia di Passignano, che è un'abbazia dell'ordine degli agostiniani vallombrosani. Questi monaci, che avevano la loro casa madre a Valle Ombrosa, vicino a Firenze, erano dei monaci molto particolari. Oltre a combattere la simonia e il nicolaismo, cioè la vendita delle indulgenze e il fatto che i preti volevano sposarsi a tutti i costi, erano dei monaci verdi, perché gli venne assegnato appunto una foresta da gestire, la foresta di Valle Ombrosa, e divennero degli specialisti incredibili nella gestione del territorio e del paesaggio. Questa abadia però non è la casa madre, ma è un'abadia molto importante, quella di Passignano. Perché? Perché il santo fondatore Giovanni Gualberto decise di venire a morire qui, in questo luogo, quindi fece dell'abadia di Passignano il secondo grande o luogo della grande famiglia dei Vallombrosani, che purtroppo vennero estinti da Napoleone e poi i beni vennero dispersi dopo l'unità d'Italia. Questi monaci sono ancora cinque, sono rimasti cinque, che hanno ricomprato la loro abbazia nel 1986. Oggi andiamo a visitarla soprattutto per la meravigliosi affreschi della chiesa, ma soprattutto per il refettorio, dove si trova un mirabile affresco di Domenico Ghirlandaio che illustra appunto l'ultima cena. Guardate che a questi affreschi, a questo tipo di storia, questa composizione degli apostoli messi a cena, poi si ispirerà anche Leonardo da Vinci, che era fiorentino come il Ghirlandaio e che quando verrà a Milano riproporrà nell'ultima cena, nel cenacolo di Santa Maria delle Grazie, questa grande messa in scena degli apostoli a cena con Cristo.